Nel teatro greco i dialoghi fra i personaggi si alternano al coro. Queste parti corali vengono chiamate stasimi, mentre quelle dei personaggi vengono chiamate episodi. L'episodio etimologicamente sarebbe come un'entrata aggiuntiva, perché può essere tradotto con verso, odos con strada, via, la via verso. Questo odos è lo stesso che ritroviamo in parole come metodologia, per esempio. Un'evidente gerarchia di valori ha poi fatto sì che l'episodio venisse a designare un'azione accessoria collegata all'azione principale. Un episodio della Prima Guerra Mondiale sarebbe pertanto un fatto accaduto in quel contesto, ma considerato limitato di facoltà causali ben circoscritte, non determinante insomma per l'evolversi del contesto medesimo. Va da sé allora che a decidere cosa sia episodio e cosa no sia un sistema di valori per lo più tacitamente presupposto. Ieri sera Carlo Mazzone, allenatore della squadra di calcio del Brescia, subito dopo la partita, davanti a telecamere e microfoni impellenti, ha spiegato che, pur avendo perso, la sua squadra ha dominato la partita. Ha perso, sì, ha perso, ma a causa di due episodi. È da qualche anno che la retorica calcistica ha inventato questa argomentazione e il fatto che continui ad essere usata la dice lunga su parecchie cose. Innanzitutto la dice lunga sulle possibilità delle parole di slittare dal loro significato di un certo periodo storico fino a significati ben diversi e fin diametralmente opposti. Nel gioco del calcio a decidere il risultato di una partita sono i gol, che è in quanto tali, allora, perché soltanto loro decidono il risultato, in quanto tali non possono essere considerati accessori rispetto ad altri eventi non meglio specificati che si vorrebbero principali ma ininfluenti ai fini del risultato. Confinare fra gli episodi gli eventi decisivi ai fini di un esito conclusivo, sarebbe come considerare marginale la potenza bellica di un paese ai fini dell'esito di una guerra. Quando l'uso di una parola è basato sull'accettazione, consapevolmente o inconsapevolmente, di un'incongruenza, tuttavia c'è sempre sotto qualcosa di inconfessabile. Quando gli allenatori di calcio parlano di episodi che determinerebbero l'esito di una partita, si riferiscono, senza avere il coraggio di nominarli come tali, a circostanze del tutto occasionali o a casi fortuiti. È implicito in questa scelta lessicale un giudizio sulla partita nel suo complesso o sulla prestazione di una squadra, un giudizio negativo che in genere, per motivi di opportunità o di buon gusto, si preferisce tacere. A nessun allenatore, per esempio, fa piacere esprimere un giudizio negativo nei confronti della propria squadra o di quella altrui. In un caso corre un rischio di autolesionismo, di offendere i propri giocatori, e nell'altro corre un rischio di incrinare la propria deontologia professionale, offendendo i colleghi. Parlare di episodi, insomma, è diventato un eufemismo. Si dice al tempo stesso non si dice. L'attribuire ad un episodio, per esempio, ad aver subito un gol, vuol dire mettere in evidenza che quel gol, con l'azione che l'ha originato, non è collegabile con l'insieme di tutte le altre azioni. Che per quel gol, in altre parole, non c'erano le premesse. E dunque, al contempo, mantenendo integra la pubblica stima nei confronti del collega, a cui non si dice quanto è stato fortunato, a cui non si dice che ha vinto per caso, ci si scarica di eventuali proprie responsabilità. Fra le virtù sociali dell'eufemismo, d'altronde, spicca il fatto fatto che non offende, non trasgredisce l'etichetta, onora il conveniente e, senza neppure bisogno di esprimerlo, rispetta il convenuto. Riferisce Franco Cordelli di una replica dei Negri di Jean Genet che Antonio Latella nei giorni scorsi ha messo in scena al Teatro Nuovo di Napoli. A pochi minuti dalla fine, un attore, faccia in avanti, è stramazzato a terra. Gli altri attori hanno continuato a recitare e lui Cordelli, come tutto il pubblico, hanno creduto che quella caduta fosse parte dello spettacolo. Ci è voluto più di un minuto perché si provvedesse a chiudere il sipario, far salire in palcoscenico il pronto intervento medico e risolvere la questione, che peraltro sembra si sia risolta bene, e poi ripartire con lo spettacolo fino a chiuderlo alla belle meglio. Nessuno direbbe che il senso della rappresentazione teatrale è stato in quell'episodio. Ma se quell'episodio è stato vissuto con tanti margini di ambiguità, è perché evidentemente si scriveva, o meglio, si poteva iscrivere in qualcosa di convenuto. È grazie a regole della rappresentazione particolarmente resistenti, etichette tenaci, che può iniziare una storia della loro trasgressione. Il direttore d'orchestra entra ben dopo che è entrata l'orchestra e dopo che hanno trafficato nei riti dell'accordatura, entra, si becca la sua razione di applausi e stringe la mano al primo violino. Ma non si erano visti prima fra le quinte, in camerino? Beh sì, certo, sì che si erano visti, ma la stretta di mano fa parte dello spettacolo e nonostante non faccia rumore, diciamo che è un episodio del concerto. Nel 1961, tuttavia, Carmelo Bene dal palcoscenico fa pipì su uno spettatore della prima fila. Spettatore della prima fila che niente affatto casualmente era Paolo Milano, il critico teatrale dell'Espresso. Cito il primo caso di ambiguità semiologica teatrale artatamente costruita che mi viene in mente. Un caso di trasgressione delle regole, perlomeno di quelle che vorrebbero l'eiezione teatrale una mera finzione o come tale rigorosamente separata dall'attualità del suo spettatore. È un principio evolutivo di questo tipo, un misto di variazione per prova, per errore, caso, premio e castigo, che poi di variazione in variazione porta al Giuda della rappresentazione natalizia sulla piazza del paese, al Giuda che si impicca per la contrizione di un tradimento che non è affatto quello che crede di aver compiuto nei confronti del Cristo, ma è quello delle esigenze di maggior realismo da parte del regista. Un Giuda che si impicca per davvero e che muore mentre gli altri attori proseguono nel loro onesto mestiere complimentandosi e compiacendosi per il tasso di realismo raggiunto. Ed evolvendo di trasgressione in trasgressione, dobbiamo oggi ammettere che fossimo anche al teatro dell'oratorio sotto casa. Vi si recitasse la Delchi, l'Anitra Selvatica, o Bibi e Bibò e Capitan Cocorico, stramazzasse faccia in avanti un attore e lo spettacolo continuasse, non batteremmo ciglio. Sostituiamo qualcosa con qualcos'altro, a seconda delle nostre consapevoli o inconsapevoli convenienze. Quando sostituiamo al meglio, orientati al meglio, come è il caso dell'eufemismo, una metafora al servizio delle convenienze semiologiche, quando sostituiamo orientati al meglio, possiamo giungere ad un grado talmente alto di raffinatezza da costruire marchingegni letali. Nei giorni scorsi è morto Camillo José Cela, premio Nobel per la letteratura. Ha fatto vari mestieri, non tutti onorevoli, e un'impresa memorabile. Ha ripetuto lo stesso pubblico discorso, lo stesso discorso ufficiale sulla difesa della lingua spagnola, l'ha ripetuto in 3 occasioni diverse, a distanza di anni, perfettamente identico. Pochissimi se ne sono accorti. Le autorità invece lo hanno sempre applaudito. E chi lo ricorda franchista potrebbe parlare, alla maniera dell'allenatore del Brescia, di un episodio. Ma è anche il caso raro di qualcuno che si è rifiutato alla logica dell'eufemismo. O è il caso meno raro di qualcuno che ha trasgredito le regole allorché ha capito che non aveva più nulla da perdere. Falling.